Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, giovedì 1 agosto 2013 è la 107esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La voce che state ascoltando è quella di Camilla Lattanzi in rappresentanza del resto della nostra redazione. Oggi parleremo di animali acquatici e della loro condizione di schiavitù nel nostro paese. Vi daremo una ricetta estiva, andrà in onda un congedo per niente triste da una delle nostre redattrici. Infine, vi segnaleremo un appuntamento tutto toscano da non perdere per il fine settimana. Venerdì 26 luglio a Genova è stato inaugurato in pompa magna il nuovo Delfinario, una struttura costosissima disegnata dall'archistar Renzo Piano, per la quale sono stati spesi ben 26 milioni di euro. Il nome ufficiale è Padiglione dei Cetacei e, come sempre avviene in questi casi, la copertura ideologica dell'operazione ha un contenuto scientifico. Si dice che la vasca di vetro, ferro e cemento riproduce l'ambiente naturale e che il padiglione dei cetacei, come pudicamente viene definito ufficialmente il delfinario, permette di osservare e conoscere da vicino gli animali che vi scontano in realtà un ergastolo di tipo ostativo. Alle eventuali obiezioni sulla prigionia inflitta ai sei delfini si risponde spiegando che sono tutti animali che già si trovavano in cattività o che sono nati da genitori già detenuti in altre vasche. Il padiglione dei cetacei, che può sembrare grande allo sguardo umano, sono quattro vasche profonde fino a 7 metri, ovviamente non è altro che un luogo di reclusione per animali capaci di spingersi fino a 800 metri di profondità e di nuotare in mare aperto per chilometri. Se la discussione fosse meno ipocrita e più rispettosa per la vita altrui, anche il sindaco di Genova, Doria, che ha inaugurato la struttura, o gli artisti ingaggiati per promuoverla, come Geppi Cucciari e la premiata Forneria Marconi, per non parlare del progettista Renzo Piano, si chiederebbero qual è il reale valore educativo di una struttura così antiquata, che riflette una mentalità ottocentesca, con gli animali prigionieri esibiti con un orgoglio e una leggerezza da impresa coloniale. Perché non si dice che la conoscenza della vita animale oggi è possibile attraverso filmati, fotografie, documentari? Che cosa può apprendere di positivo una persona visitando spensierata un luogo di reclusione? Delfinari e luoghi simili sono un residuo di un'epoca da dimenticare, totalmente irrispettosa degli animali non umani. I delfini oggi in cattività dovrebbero essere reimmessi in natura, ove possibile, valutando le caratteristiche di ciascuno. E la loro riproduzione andrebbe evitata. L'idea che il fatto di avere figli migliori la vita dei prigionieri è solo un alibi per non fermare la triste e macabra industria dell'esibizione degli animali selvatici. La LAV ha contestato il delfinario di Genova con un esposto alla Corte dei Conti per i 26 milioni di denaro pubblico speso nella struttura, promuovendo uno spot SOS Delfini, firmato da Licia Colò e Giorgio Panariello, e facendo sorvolare l'area del porto di Genova durante il varo del delfinario da un piccolo aereo che trascinava uno striscione lungo 6 metri con la scritta «Liberiamo i delfini». Speriamo che questo sia l'inizio di una mobilitazione che si ponga l'obiettivo di mettere finalmente fuori legge simili strutture e con esse, ovviamente, tutti gli zoo. È un obiettivo raggiungibile, nonostante la brutta pagina scritta dalla città di Genova quest'anno. Mi trovo a Pomezia, un comune alle porte di Roma, con gli attivisti e le attiviste del coordinamento antispecista di Pomezia, recentemente impegnati a contestare il parco acquatico Zoo Marin, una struttura che si trova tra Pomezia e Torvaianica. Chiedo a Marina cosa succede in questo parco acquatico e il motivo della contestazione. Zoo Marin è un parco acquatico appunto che si trova qui a Torvaianica, dove convergono moltissime persone anche da tutta Italia, perché hanno anche un'agenzia di viaggi che lavora per loro e diverse strutture ricettive. Noi protestiamo contro la detenzione di delfini e di altri animali, perché hanno anche uno zoo dove ci sono vari tipi di uccelli, foche e altri animali, perché riteniamo che la detenzione per sfruttamento degli animali e qualsiasi tipo di detenzione non sia giusta. Oltretutto i delfini proprio in questi ultimi periodi sono stati considerati, specialmente dal governo indiano che ha proibito l'allestimento di delfinari, sono stati considerati persone non umane. I delfini, come altri animali, sono molto intelligenti e lì vengono costretti a Zoo Marin a fare degli spettacoli per far divertire le persone, e per un'ora di questo divertimento loro sono costretti a una prigionia a vita. Dice che gli animali nascono proprio nella struttura, ma questo non vuol dire che non soffrano, perché comunque gli animali hanno sempre una memoria ancestrale della loro esistenza. Costringerli a vivere in una vasca vuol dire come vivere in un bicchiere d'acqua per loro, perché sono animali abituati a viaggiare per centinaia di chilometri e comunque anche a contatto con gli esseri umani, come fa Zoo Marin, che fa anche dei contatti con gli umani di insegnamento per le scuole. I delfini sono molto delicati da questo punto di vista e spesso prendono proprio delle malattie da noi umani. Prendono delle malattie e quindi vengono continuamente nutriti di farmaci e tutto quanto possa tenerli in salute. Quindi noi siamo contrari a tutto questo. Ad Alessandro chiedo in che cosa è consistita l'azione del coordinamento antispecista e quali sono stati gli esiti dal punto di vista della comunicazione, se la stampa se n'è interessata e se hanno ottenuto, quindi hanno avuto la percezione di ottenere un risultato di quale tipo. Come tutte le nostre iniziative è stata un'azione civile, sempre nell'ambito legale, diciamo, e abbiamo portato molta gente lì davanti inscenando anche una coreografia, diciamo, portando anche attrezzature come una gabbia dove dentro c'erano chiuse delle persone che simboleggiavano appunto la prigionia, e con molti cartelli che esponevano i temi che noi portavamo lì e per i quali eravamo lì a contestare. La nostra iniziativa era atta a sensibilizzare l'opinione pubblica, chiunque arrivasse lì portando i propri figli senza magari immaginare o comunque senza avere una presa di coscienza su quello che significano questi posti. Quindi noi eravamo lì proprio per dare questo messaggio e per aprire un po' le coscienze. Ci sono state molte persone che sono tornate indietro, bambini che hanno preso coscienza e quindi hanno capito, hanno chiesto ai genitori di tornare indietro. Tutte queste iniziative hanno questo scopo, hanno anche lo scopo di attirare l'opinione pubblica e i media su questi argomenti. Ci sono state dei giornali locali anche che si sono interessati e sono venuti appunto ad intervistarci, hanno fatto degli articoli molto positivi. Non è stata la prima volta e ce ne saranno tante altre. La nostra intenzione è di continuare in questo modo, continuare a battere questa strada, ma anche comunque comunque tentare altre iniziative anche a livello legale e anche provare a avere dei confronti con chi dirige queste strutture e capire anche come si possono modificare queste strutture in modo che non sfruttino più gli animali ma diventino effettivamente dei parchi di divertimento e di svago per tutti, quindi non dove ci siano degli esseri viventi schiavizzati che sicuramente non si divertono. Faremo anche un'iniziativa molto carina e simpatica, andremo sulle spiagge di Torvaianica e Ostia consegnando dei volantini in cui si parla di Zoo Marine, qual è la prigionia dei delfini e di tutti gli altri animali che ci sono detenuti, si chiamerà Zoo Marine on the Beach e porteremo dei cartelli con scritto Stop Zoo Marine e consegneremo i volantini a tutte le persone che magari staranno lì a prendere il sole, avranno il tempo di leggere e di essere informati. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. D'estate fa caldo e la voglia di cucinare scarseggia, ma non per questo bisogna mortificare il palato e rinunciare ad un pasto invitante e gustoso. Oggi quindi vi propongo una ricetta di bruschette con pomodoro e basilico. Le bruschette le conoscete tutti, sono un grande classico, così rapide da preparare, fresche e saporite. Io vi propongo la nostra versione preferita, anche in base agli ingredienti che avevo a disposizione. Ma il bello delle bruschette è che si prestano a mille favolose varianti. Gli ingredienti per due sono 6 fette di pane pugliese o comunque di pane casereccio, 2 spicchi d'aglio, 5-6 pomodori maturi, un mazzetto di basilico fresco, 12-15 olive, 2 cucchiaini di capperi, 125 g di tofu al naturale, erba cipollina, timo, peperoncino in polvere, sale, pepe e olio extravergine d'oliva. Allora, un po' in anticipo se potete, preparate la farcia, tagliando a piccoli cubetti i pomodori e il tofu, sminuzzando le erbe aromatiche e mescolando in una ciotola tutti gli ingredienti, a eccezione del pane. Mescolate bene e lasciate riposare in frigorifero. Se qualcuno l'ama particolarmente e non ha problemi a digerirlo, ci sta benissimo anche una mezza cipollina tritata fine fine. Dicevamo di lasciarla riposare in frigorifero perché in questo modo si amalgameranno bene i vari sapori e si produrrà quel sughetto favoloso che ammorbidirà il pane. Quando siete pronti per mangiarle, fate tostare velocemente il pane in forno se ne avete voglia. Altrimenti io lo faccio sempre tostare in una padella antiaderente e viene benissimo. Coprite le fette con abbondante farcia di pomodori e la cena è pronta. Il mio cuore come batte quasi a ceppi del nataio. Così quella nel mio latte l'acqua più non metterà. Ma non attenderti gli schimmari. La rubrica Il pasto gentile passa nuovamente di mano. Dopo Giuseppe Coco e Alessandra Giannini, anche Sara Razzoli si congeda dalla nostra rubrica. Abbiamo chiesto a Sara di spiegare lei stessa agli ascoltatori e alle ascoltatrici il motivo del suo congedo. Mi prendo un congedo di maternità perché sono incinta, sono il 9° mese e in teoria a fine agosto nasce il mio primo figlio e quindi diciamo che momentaneamente sospendiamo l'impegno delle registrazioni delle ricette. Com'è stato questo impegno per te, Sara? È stato divertente, è stato un piacere. Io le ricette erano ricette che avevo già fatto, che avevo pubblicato sul blog. Era solo proprio questione di registrarle a voce e inviarvele. Anche molto interessante perché così ho conosciuto questa radio e magari anche tramite le vostre newsletter così restavo sempre aggiornata e venivo a conoscenza di tantissime notizie riguardanti l'ecologia, l'antispecismo, queste cose qui che mi interessano molto, quindi sono proprio contenta di avervi conosciuto e di essere entrata nella vostra redazione. E adesso, come cuoca con una pancia di 9 mesi, cosa stai combinando? È molto difficile stare ai fornelli col pancione. Il desiderio, l'interesse c'è ancora, mi piace cucinare, guardo sempre riviste, cerco nei blog e appena riuscirò mi rimetterò di impegno sicuramente. Per restare in contatto con Sara e le sue avventure di mamma e chef vegana potete seguire il suo blog digitando un nome un po' difficile, prendete nota, Straigt con l'H tra la G e la T, edgefam.blogspot.it. Si legge straightedgefam.blogspot.it. Per concludere diciamo a Sara che quando avrà qualcosa da dire e da dirci saremo sempre felicissimi di darle spazio. Grazie Sara. Grazie a voi, grazie mille. Sara Razzoli, restiamo animali? Restiamo animali. Che cosa può combinare, non so. Oh mamma, se sono da sposare. Oh mamma, mi porterai la ta. Certo avrò qualche specialità, ma non lo sposo subito se non lo sposo più. Segnaliamo un appuntamento da non perdere per il fine settimana. Sabato e domenica a Volterra è in programma la prima edizione di Volterra Vegan. Il programma è ricchissimo e prevede stand gastronomici e non, conferenze sull'antispecismo, presentazioni di libri, installazioni con la proiezione di video investigazioni all'interno di allevamenti e poi laboratori, concerti, seminari. Tutta la città sarà coinvolta e anche molte trattorie e ristoranti saranno disponibili in menù vegan. Il prologo di Volterra Vegan, domani sera, sarà una cena esclusiva all'interno del carcere, una cena vegaleotta, con intrattenimento musicale a cura dei detenuti. Le iscrizioni per questa cena sono ormai chiuse, ma noi ci saremo e ve ne riferiremo la prossima settimana. Per gli appuntamenti di sabato e domenica vi rinviamo al sito volterravegan.it, ma vi segnaliamo almeno sabato alle 10.30 l'inaugurazione delle installazioni curate da Animal Equality e da Nemesi Animale, e alle 16.30 la conferenza di Marco Verdone, veterinario omeopata a lungo in servizio nell'isola carcere di Gorgona, sul tema carceri animali. E ancora, domenica alle 16, la conferenza del pediatra e nutrizionista Leonardo Pinelli sul tema Una nuova visione positiva dell'essere vegani, la difesa dai veleni dell'ambiente. Chiudiamo con una massima di Charles Darwin. L'empatia per il più piccolo degli animali è una delle più nobili virtù che un uomo può ricevere in dono. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti: restiamoanimali@controradio.it.